giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nei primi 7 mesi dell'anno sono 494 i richiedenti asilo che vivono all'Addiaccio a Trieste. La rete solidale che supporta i migranti denuncia il blocco pressoché totale dei trasferimenti. Non sono da record, ma sono comunque molto alte le temperature di questi giorni. Un grande caldo che però è destinato a finire presto. E con le ondate di caldo si alzano i livelli di ozono rispetto al passato, però i picchi sono più bassi. L'analisi dell'ARPA regionale. Sono pieni i bacini montani, le piogge di luglio hanno salvato la stagione irrigua, ma permane la sofferenza delle falde, situazione migliore sul tagliamento. E anche l'India arriva sulla Luna, ora la sonda analizzerà il polo sud inesplorato e ritenuto ricco di ghiaccio, obiettivo anche le basi lunari, dice l'astronomo dell'ESA Roberto Staglio. Il re della fotografia Dante Spinotti compie 80 anni e li festeggia nella sua amata Carnia, nella casa della nonna Soprovaro, dove ritorna ogni estate il forte legame con le origini. Pallacanestro giovanile in campo a Legnano per le finali nazionali di basket 3 contro 3. A partecipare oltre 400 tra atleti e atlete, 120 le formazioni. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e da parte di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. I temi dell'immigrazione ancora in primo piano nel nostro GR con i dati del rapporto realizzato dalla rete solidale di Trieste. Un aggiornamento sulla situazione dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica nel capoluogo regionale nei primi 7 mesi dell'anno. Al 22 agosto sono 494 i richiedenti asilo che vivono all'Addiaccio, una permanenza che può arrivare per più di 3 mesi per almeno 74 persone. La rete che supporta i migranti denuncia il blocco pressoché totale dei trasferimenti. Un drammatico peggioramento della situazione dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica, dovuto all'aumento degli arrivi ma soprattutto al blocco pressoché totale dei trasferimenti. E quanto emerge dal rapporto Vite Abbandonate realizzato dalla rete solidale di Trieste? Secondo le attività di monitoraggio svolte dai volontari nell'area di Piazza Libertà e del centro diurno, al 22 agosto erano 494 i richiedenti asilo costretti a vivere per strada, con una permanenza all'Addiaccio che arriva a più di 3 mesi per almeno 74 persone, prima di poter accedere al sistema di prima accoglienza previsto dalla legge. In media 37 gli arrivi al giorno nel 2023 a fronte dei 15 dell'anno precedente. Dalla fine di maggio, denuncia Gianfranco Schiavone dell'ICS, praticamente lo Stato non ha più fatto trasferimenti di richiedenti asilo da Trieste verso il resto del territorio nazionale. Siamo arrivati all'incredibile numero di 500 persone abbandonate. Dai dati emerge inoltre un aumento dei minori non accompagnati e delle famiglie, oltre che delle persone vulnerabili a causa di problemi di salute. Ad aggravare ulteriormente la situazione è la chiusura a inizio luglio del progetto Emergenza Freddo del Comune, che garantiva una 60 di posti letto a breve termine per le persone più fragili. Una delle strutture più efficaci per ridurre il danno, come l'hotel Alabarda, che accoglie donne sole e famiglie, nelle ultime settimane si è trovata a sua volta senza disponibilità di posti letto. È inderogabile e urgente la richiesta della rete solidale mettere in atto da parte delle pubbliche autorità una serie di iniziative urgenti per contenere una situazione che ha assunto il profilo di una vera emergenza umanitaria. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un flusso che non si arresta. Militari dell'esercito italiano e agenti della polizia di frontiera hanno rintracciato in località diverse, ma comunque nelle zone vicine al confine con la Slovenia, complessivamente 61 migranti irregolari. Si ritiene che fossero appena giunti sul territorio nazionale. I migranti sono stati individuati a piccoli gruppi tra Monrupino e San Dorligo della Valle. Si tratta quasi esclusivamente di cittadini provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan. Il gruppo più nutrito era composto da 40 persone rintracciato a Dolina. Immigrazione e autonomia, questi temi principali discussi ieri dal presidente della regione Fedriga al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, e ancora una volta Fedriga si è rivolto all'Europa. Servono un'Europa di nuovo territorio di legalità e in Italia un'autonomia differenziata come opportunità per ogni regione. Massimiliano Fedriga al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione affronta il tema dell'immigrazione andando oltre le misure temporanee che rischiano di diventare semplici palliativi. Penso che ci voglia un forte intervento europeo per fare accordi con i paesi delle rotte migratorie, dice il presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Accordi che poi però vanno fatti rispettare, altrimenti noi metteremo sempre delle toppe e non risolveremo mai il problema, aggiunge. Fedriga parla di pattugliamenti congiunti con paesi coinvolti come la Slovenia. Se vogliamo far tornare la legalità in Italia e in Europa, dobbiamo dare delle risposte a chi scappa da una guerra e quindi ha diritto allo status di rifugiato di protezione sussidiaria. Però non possiamo pensare che chiunque possa andare dappertutto. Sottolinea Fedriga, che parla anche di autonomia differenziata dal palco di Rimini come di una grossa opportunità per ottimizzare le risorse con cui offrire ai cittadini servizi sempre migliori. Il Friuli Venezia Giulia ne è un esempio. Essendo una regione a statuto speciale, ovviamente cosa molto diversa dall'autonomia differenziata, perché noi abbiamo uno statuto e abbiamo un'autonomia ben più forte, però un esempio che quando molti servizi vengono erogati dal territorio, migliorano in termini di efficienza ed anche di efficienza di spesa. Se avviciniamo il governo della cosa pubblica al cittadino, riusciamo a ottimizzare le risorse, a spendere bene le risorse e a dare più diritti ai nostri cittadini. I cittadini hanno diritto ai livelli essenziali delle prestazioni, sempre e comunque, dice il governatore del Friuli Venezia Giulia. Ogni regione può chiedere di gestire direttamente determinate prestazioni per erogarle con maggiore efficienza sul proprio territorio, conclude Fedriga. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Renato Santin, 65 anni, eletto sindaco di Chions nel 2016 e riconfermato nel 2021, è stato trovato senza vita stamani nel letto della propria abitazione da un familiare, probabilmente stroncato da un infarto. Ieri sera aveva sentito al telefono alcuni amministratori locali e regionali per pianificare alcune attività comuni. Per un lungo periodo Santin ha insegnato all'Istituto Superiore Paolo Sarpi di San Vito a Tagliamento, indagini dei carabinieri che hanno escluso responsabilità di terzi. La polizia rumena ha arrestato una cittadina rumena di 36 anni, dando esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalla procura di Udine nel giugno del 2017. La donna era stata condannata a 2 anni di reclusione in seguito a una serie di furti avvenuti a Tavagnacco nel 2013, in cui era stata arrestata insieme ad un complice. In seguito alla condanna, la donna era stata localizzata nel 2019 in Germania, dove si era stabilita, ma le autorità tedesche si erano rifiutate di concedere la sua estradizione. In seguito la stessa si era resa irreperibile fino al 21 agosto scorso, quando è stata rintracciata in Romania. Diamo uno sguardo al tempo con cielo sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi. Gorizia e Pordenone 32 gradi, a Udine 33. Forni di Sopra 26 gradi, a Tolmezzo 27, a Travisio 24 gradi, Piancavallo 25 gradi, a Sappada 22. In montagna sullo Zoncolan 23 gradi e su Lussari 21. Sulla costa a Grado 30,5 gradi, temperatura del mare di 27 gradi e a Lignano 31 gradi con la temperatura del mare di 29 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza sereno, farà ancora molto caldo con venti a regime di brezza. Sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale, saranno possibili dei locali rovesci o temporali nelle zone al confine con il Cadore. Domani avremo cielo in prevalenza sereno, farà ancora molto caldo, sulla costa al mattino soffierà borino ad est che favorirà minime elevate. In giornata venti a regime di brezza, sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale. Ancora per oggi Trieste figura tra le 17 città da bollino rosso. Non sono da record, ma sono comunque molto alte le temperature di questi giorni che hanno investito la regione. Un grande caldo che però è destinato a finire presto, come ci spiega Francesco Sioni dell'OSMER. La presenza, diciamo, dell'anticiclone nordafricano ha determinato l'afflusso verso la nostra regione di una massa d'aria molto calda, che ha determinato quindi anche temperature eccezionali per la nostra regione in relazione a questo periodo dell'anno. Tendenzialmente, appunto, le massime ad agosto si raggiungono nella prima decade di agosto, poi tendenzialmente le temperature massime tendono a diminuire, mentre in questo caso abbiamo avuto temperature medie sulla nostra regione negli ultimi giorni, diffusamente in media superiori ai 5 gradi. Per quanto riguarda le temperature massime, localmente sono state raggiunte temperature massime anche di 6-7 gradi sopra la norma del periodo. Cosa ci aspetta dopo? A partire da domenica e poi lunedì l'anticiclone africano appunto si ritirerà decisamente più a sud, lasciando spazio all'ingresso di aria più fredda, con un fronte che interesserà la regione probabilmente da lunedì e poi nelle giornate probabilmente anche di martedì e mercoledì, con appunto afflusso di aria molto umida e probabilmente appunto che porterà a delle piogge diffuse sulla regione. Tuttavia la tendenza è ancora incerta. Possiamo dire che arriviamo da una situazione particolarmente calda e quindi l'ingresso di aria fresca potrebbe appunto creare un forte contrasto e quindi favorire fenomeni che potrebbero essere anche intensi. E con il caldo si ripropone il problema dell'ozono. Per sapere qual è la situazione siamo andati nella sede dell'ARPA regionale. Con le ondate di calore come quella attualmente in corso, il livello di ozono nell'aria si alza ed è uno dei parametri che si sta tenendo in particolare considerazione, come in tutte le estati, nell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che sta registrando dei picchi che però sembrano mediamente, non solo in questi giorni ma negli ultimi 3 anni, meno alti rispetto al passato. Chiediamo di spiegare meglio questo fenomeno alla direttrice dell'ARPA, Anna Luttmann. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che siamo in allerta ondata di calore. Sta succedendo che l'ozono, come è già stato detto, sta salendo, ma quello che notiamo, perché i conti si fanno nel triennio, notiamo che in quest'ultimo triennio c'è una tendenza della riduzione dei picchi di massimo, e questo ci fa ben sperare che questa molecola ha delle sue tendenze a diminuire, forse a causa anche delle misure messe in atto per ridurre alcuni precursori, che sono per esempio gli ossidi di azoto, e quindi forse anche un cambio del parco macchine che sono ultimamente sta avvenendo. Stiamo studiando però questo fenomeno che ci dà ben sperare. Ricordiamo che l'ozono crea dei problemi a livello di apparato respiratorio, agli occhi, però al di là del livello di ozono che, ricordiamolo appunto come detto, è sotto il livello di comunicazione, di obbligo di comunicazione, quindi diciamo è sotto il livello di allerta, per usare un termine diciamo non esattamente preciso ma per dare un'idea, bisogna comunque evitare di uscire perché siamo sotto ondate di calore, almeno fino a quando, dottoressa? Ma noi abbiamo messo l'allerta all'ondata di calore sicuramente fino a sabato, probabilmente sarà forse anche fino a domenica. Da domenica verso lunedì ci aspettiamo un cambio del tempo, queste sono le previsioni in questo momento. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono pieni i bacini montani, le piogge di luglio hanno salvato la stagione irrigua, ma permane la sofferenza delle falde, situazione migliore invece sul tagliamento. Con 10 milioni di metri cubi l'invaso di Barci si è pieno. I 3 bacini sull'asta del Meduna, 15 milioni di metri cubi di acqua stoccati, sono in linea con le medie del periodo. Le piogge di luglio hanno salvato la stagione irrigua che si appresta a concludersi senza criticità. Massimiliano Zanete, direttore generale del consorzio di bonifica Cellina Meduna. Abbiamo avuto un giugno abbastanza in media con la climatologia anche del secolo scorso. Luglio è stato particolarmente piovoso. Questo ovviamente ha agevolato l'attività irrigua perché di fatto temperature e acqua non hanno reso necessario accendere gli impianti. Adesso ci troviamo nel pieno di un periodo di alta pressione con alte temperature. Le vendemmie dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, così come le trebbiature. Quindi riteniamo che l'esigenza irrigua ovviamente è in calo, nettamente in calo, e quindi sicuramente i quantitativi a disposizione sono sufficienti per chiudere settembre. Seppur con qualche segnale di ripresa, permane invece la severa sofferenza delle falde, i cui livelli sono ancora ai minimi storici, specie in Friuli occidentale. Va meglio nel bacino del Tagliamento. Ancora Zanette. In destra Tagliamento le falde, diciamo così, hanno avuto sicuramente un incremento, ma siamo ancora ai minimi storici. Registriamo ancora livelli che sono minimi rispetto a tutte le serie storiche registrate. In sinistra Tagliamento le cose sono andate un po' meglio, anche perché nel mese di luglio ha piovuto di più. E probabilmente avremo l'effetto delle piogge di luglio anche nelle prossime settimane. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Con l'allunaggio della sonda Vikram, anche l'India entra tra i paesi che hanno conquistato il nostro satellite. La missione è stata celebrata come un successo dal premier Modi e segue di pochi giorni il fallimento dell'analogo tentativo russo con Luna 25. Abbiamo chiesto a Roberto Staglio, astronomo dell'ESA, qual è il significato di questa nuova corsa alla Luna. Prima di tutto è una bella notizia sentire che un esperimento spaziale è andato bene. Poi in particolare perché questo esperimento era particolarmente difficile. Il polo sud della Luna è importante perché la potenzialità di avere enormi quantità di ghiaccio e quindi di acqua. Perché la Luna è ancora così interessante? Cosa ancora da insegnarci la Luna? Nel caso dell'India, a mio parere, si tratta di un importante dimostratore tecnologico. Va bene cercare la Luna e cercare acqua nella Luna perché sarà la prossima frontiera dello spazio, perché si faranno delle basi lunari sia per questioni militari che per questioni di materiali strategici. L'India è la quarta potenza che è arrivata sulla Luna dopo, sì, dopo Stati la Uniti, Russia, Unione Sovietica, Cina e India. No? E l'Europa? Beh, ma l'Europa ci arriva con componenti insieme con gli americani. Grande festa Ovaro per gli 80 anni di un grande direttore della fotografia, Dante Spinotti, due volte candidato al premio Oscar. Spinotti esorta a valorizzare la Carnia, luogo magico che ci dice deve essere apprezzato per la sua autenticità. Lei nasce proprio oggi, il 24 agosto del 43, a Tolmezzo, uno dei luoghi più lontani da Hollywood e dal cinema contemporaneo. Adesso c'è anche qualche produzione che ritorna in Friuli Venezia Giulia. Cosa si dovrebbe fare secondo lei per incentivare questa terra a cercare di portare grandi nomi, grandi produzioni sul territorio? Ma intanto farla conoscere nei suoi luoghi più intimi e difficili, no? Perché tutti conosciamo le piazze di Udine, di Trieste, ma ci sono un sacco di posti magici qui che valrebbe la pena, per tante storie potrebbero essere adatte. Così come forse tendenzialmente il tipo di paesaggio che c'è qui a volte un pochino tende a essere minimamente malinconico, no? Qui invece c'è tutto un altro tipo di mondo, molto, molto, a volte molto intimo, a volte veramente straordinario, ma va fatto conoscere, va ricercato e potrebbe andare bene per certe storie, certo. Così come per esempio sono i pascoli alti, sono i paesaggi raggiungibili in strada, che sono paesaggi in quota dove sono pascoli alti, le maghi, eccetera, che sono veramente spettacolari. Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcune anticipazioni della stagione 2023-2024 del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, con un cartellone che spazierà tra i vari generi con proposte interpretate dai più grandi nomi della scena teatrale e con compagnie prestigiose di rilievo nazionale e non solo. Gli spettacoli saranno svelati nel dettaglio a metà settembre, ma intanto il direttore artistico Walter Mramor preannuncia che tra gli eventi arriverà la nuova produzione di uno dei musical più noti e longevi, Chicago, con la regista Chiara Noschese, che oltre a dirigere lo spettacolo interpreterà anche il ruolo di Mama Morton insieme a Stefania Rocca. L'irriverente Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo porterà al Verdi, nell'ambito della musica e balletto, Elio e le storie tese, che diretti dal regista Giorgio Gaglione intraprenderanno un picaresco viaggio musicale del loro repertorio. Sempre Gaglione dirigerà Ambra Angiolini in Oliva Denaro, rappresentazione inserita nel percorso racconti tratta dal romanzo di Viola Ardone, ispirato alla storia della ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore. Un atteso ritorno sul palco goriziano nella prosa sarà quello di Alessio Boni, Iliade, il gioco degli dei, è uno spettacolo che assume un significato ancora più particolare in vista di Go 2025, considerando che è realizzato in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, con la prima nazionale al Teatro Donizetti di Bergamo il 12 dicembre. Eccoci allo sport. Fino al 27 agosto Lignano ospita le finali nazionali giovanili di basket 3 contro 3. Oltre 400 i giocatori che disputeranno le gare per assicurarsi lo scudetto. Ogni regione avrà una squadra maschile e una femminile per ciascuna delle tre categorie. Ragazzi under 18, categoria under 16 e infine i più piccoli. Sentiamo Giovanni Adami, presidente della Federazione Basket Regionale. Giovanni Adami, questa iniziativa, il 3 contro 3, è diventata olimpica perché è importante per la federazione e perché a Lignano? secondo anno di fila a Lignano, l'anno scorso non c'erano gli under 14, quest'anno abbiamo agli under 16 e agli under 18 unito anche gli under 14 per un totale di quasi 500 ragazzi e una settimana di impegno. Lignano perché questa piazza, Piazza d'Olivo, sta diventando un luogo culto del 3 contro 3. Abbiamo organizzato qui già due tappe del World Tour per nazionali femminili, ha giocato anche qua la nostra nazionale campione del mondo a Manila nel 2018 e una tappa del World Tour per club maschili. Quindi direi che è un po' un luogo perfetto, il mare alle spalle, il sole all'aria aperta, Piazzale d'Olivo è il top per questa disciplina. È una disciplina prettamente estiva che però coinvolge ragazzi di talento e non soltanto diciamo i giocatori magari come succede a livello senior che non ce l'hanno fatta. Ma è prettamente estiva perché nasce così, un po' come il beach volley, che ovviamente è tutt'altra cosa, è molto più avanti nello sviluppo della disciplina. Però ci sono delle nazioni come la Serbia, come l'Olanda, come la Francia, che hanno anche il campionato interno invernale, che ovviamente si disputa al chiuso. Noi dobbiamo fare ancora grandi passi in avanti in questo senso per far sì che diventi una disciplina completamente autonoma. È disciplina olimpica, quindi questo è la nazionale italiana femminile ha staccato il pass per le ultime Olimpiadi, quindi diciamo che il movimento sta veramente crescendo anche da noi. Ricordiamo brevissimamente, in un minuto massimo, quali sono le regole del 3 contro 3? Vai a canestro più velocemente possibile, la velocità è veramente tripla rispetto al 5 contro 5, non puoi sostanzialmente giocare la palla sul tiro sbagliato degli avversari senza essere tornato fuori dalla linea del tiro da 3 punti, i canestri non valgono come nel 5 contro 5, 3 e 2 ma 2 e 1, il primo che arriva a 21 vince e se no chi ha più punti al termine dei minuti di gioco. Andrea Saule, Lignano, TGR Friuli Venezia Giulia. Calciomercato, nuovo portiere in casa bianconera, Maduka Okoye arriva dal Watford e ha firmato un contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2027. Okoye vanta già esperienza internazionale in campionati di livello come la Championship e la Eredivisie olandese ed è stabilmente nel giro della nazionale maggiore nigeriana, con cui ha raccolto 16 presenze, esordendo già nel 2019 nell'amichevole contro il Brasile. Il bianconero indosserà la maglia numero 4. La Triestina invece comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto con Alessandro Lovisa. Il centrocampista classe 2001, arrivato a Trieste la scorsa estate, ha totalizzato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia alabardata. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, per la parte tecnica in regia Mauro Ciccarelli e Vassia Crismancic. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, ancora l'augurio di una buona giornata e grazie per averci ascoltato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.